Buonasera, benvenuti. Questo evento è curato dall'Associazione Scrittori di Bolzano e siamo ospiti in questa bellissima sala, bella grande, grazie alla Biblioteca Claudio Augusta. Sì. Si sente fino lì o dobbiamo... Sì, sì, sì, no, non si sente. Si sente bene? Beh, perfetto. Allora, questa sera abbiamo questo bel libro di Maria Paola, Fiabe di Primavera. Prima di parlare del libro, però, magari conosciamo un pochino l'autrice, anche se lei mi ha detto mi raccomando, però un po' è anche interessante, perché poi è una signora che veramente fa moltissime cose. Qui, ecco, poi ne parliamo anche di questo. Allora, scusa, senza microfono non sente. Non sente? Niente. Allora, accendi e usalo. Per cortesia. Volentieri. Mi sente adesso? Sì. Oh, sì, sì. Magari puoi abbassare un attimo? Prendo lo stand anche. Eh? Così lo può appoggiare. Sì, grazie, se no... Per cui non voglio proprio. Perfetto. Così mi sente meglio, signora? Certo, troppo. Allora, Maria Paola, lei nasce come filosofa perché lei è laureata in filosofia e poi invece si dedica all'insegnamento. È un'insegnante di scuola media in pensione. È cantastorie e menestrella, autrice di libri per ragazzi, come si può notare, e si dedica da parecchio, penso, alla ricerca dei motivi fiabeschi e mitici nel folklore popolare. Collabora con scuole, biblioteche, enti, associazioni, ad esempio con l'Associazione Scrittori. Sta collaborando, leggendo, no, non è vero, non leggendo, raccontando le storie. Lei infatti si definisce anche storytelling, io preferisco il termine affabulatrice, affabulazione che ricorda, cantastorie, che ricorda la fiaba. E viene appunto a leggere nelle case di riposo, abbiamo a raccontare nelle case di riposo e sinceramente è un modo molto bello di far conoscere una storia, poi ne riparliamo comunque. Ecco, una cosa che volevo chiedere, da anni fai spettacoli narrando appunto le fiabe, usando i burattini qualche volta e poi laboratori per ragazzi e seminari di pedagogia della fiaba. Mi spieghi un po' che cos'è la pedagogia della fiaba? Beh, seminario di pedagogia della fiaba perché la fiaba è cacaro. E diciamo che non ho acceso ora, sì, è un mezzo, uno strumento privilegiato per accedere al, per comunicare col bambino e in tutta l'età evolutiva anche, ma anche per comunicare con l'adulto, poi vedremo perché. E, abbiamo usato, viene usata, come tutti gli insegnanti lo sanno, i genitori, la fiaba viene usata moltissimo nelle scuole di primo grado, ma anche dosandole e scegliendo quelle più opportune anche nelle scuole medie e c'è tutta una teoria, c'è tutta una pedagogia dietro all'uso della fiaba, come introdurla, come dosarla, i vantaggi che ha l'uso della fiaba in un contesto sia scolastico che pedagogico extrascolastico, quindi qualche volta ho fatto anche dei laboratori, dei seminari per gli insegnanti su questo tema. Molto interessante questo. Ormai non insegno più. Comunque, ha già pubblicato diverse cose, Giuseppe e le streghe matte, Josef und die verrückten Hexen. Primo libretto, sembra un quadernetto alla copertina, insomma. Era il primo libro bilingue che ho fatto per la casa editrice Praxis. Per la Praxis. E poi Alberi incantati. Questo non tocco. Sì. No, lascia, non c'è problema. Anche questo tradotto in, tradotto in tedesco, certo. È una raccolta di inverno, ne parliamo poi quando magari. Certo. Poi fiabe d'inverno ed infine fiabe di primavera. Allora, vediamo un po'. Ti presenti, appunto, come hai detto, cantastorie, menestrella, anche un duo, no? Con cui c'è un'amica che mi accompagna quando narriamo nelle biblioteche e anche in altri contesti, a volte nelle piazze, nei cortili, con il violino. Allora ci siamo definite il duo Le Menestrelle, che ci sosteniamo a vicenda, ognuno fa una parte importante, la musica e la narrazione, come i menestrelli di una volta, il cantastorie. Secondo te qual è la differenza tra la narrazione e la lettura? E magari secondo te sempre quale delle due è più efficace? Quale arriva prima? Ma a parer mio tutte e due le forme di espressione sono efficaci e sono importanti. Io ho visto bambini affascinati sia dalla lettura, che veniva svolta a voce alta e fatta bene, sia dalla narrazione. Però se vogliamo vedere un po' la differenza tra le due forme, la lettura evidentemente attraverso la lettura si rimane, diciamo, fedeli alla lettera, al testo, mentre attraverso la narrazione c'è molto più gioco. Quindi con la narrazione a voce alta c'è una comunicazione più diretta col pubblico attraverso il gioco degli sguardi, attraverso la mimica, la gestualità, che c'è anche nella lettura a voce alta, però diciamo nella narrazione, quando guardi il pubblico in faccia, come nel teatro, c'è più possibilità di usare questi strumenti. Quindi una comunicazione più diretta col pubblico, di adulti, di bambini, con i bambini a cui si racconta, in qualsiasi luogo, e c'è anche una possibilità maggiore di interazione proprio con chi ci sta davanti. E tant'è vero che alla fine di una fiaba narrata liberamente, diciamo che narrare una fiaba ogni volta è una cosa diversa, perché si arricchisce spesso del contributo degli spettatori. Tante volte con i bambini intervengono liberamente, se gli si dà un po' una struttura che non diventino una valanga, perché a volte ti travolgono, ma molto bello a volte proprio la narrazione sia con i bambini che con gli adulti, perché danno volentieri il loro contributo, aggiungono dei particolari, fanno delle domande, e quindi alla fine di una fiaba che tu racconti magari tante volte la stessa, alla fine la fiaba è diventata un'altra fiaba, si è arricchita, è diventata una fiaba collettiva alla fine, no? Si è arricchita del contributo dei presenti. Ed è un po' questa anche la tecnica che usavano i cantastorie, perché narravano nelle piazze, nei cortili, nelle corti, poi dipende dal tipo di genere letterario, di fiaba, e spesso inserivano all'interno della loro narrazione i vari pezzi che venivano dal pubblico, ed è in questo modo che le storie, le fiabe si sono arricchite nel corso dei secoli e dei millenni. Ma la cosa più interessante è che fiabe veramente antiche, non solo di secoli ma anche di millenni, nonostante queste particolari, hanno mantenuto la loro struttura originaria. Ed è una cosa che sembra inspiegabile, invece la fiaba è proprio un insieme di simboli. di simboli ha una struttura precisa, è un insieme di simboli chiamati archetipi, sì, sì, sì, antichi, quindi sono motivi fiabeschi molto molto antichi, arcaici, che sono stati chiamati, definiti archetipi collettivi e che inesorabilmente si trasmettono da generazioni. E quindi diciamo, torniamo, facciamo il punto su questo, la lettura e la fiaba sono due forme altrettanto interessanti di, per comunicare un testo, per da, secondo me, secondo il mio punto di vista, la narrazione dà maggiore libertà. Certo, anche di adattare al pubblico, no? Magari. Infatti, certo. Tu reagisci, il narratore reagisce in base alla, alla reazione dei presenti. Giusto. Arriviamo alle fiabe. Da dov'è che nasce il tuo interesse, il tuo amore verso, verso le fiabe? L'amore verso le fiabe. Allora, diciamo che la scuola, io sono stata insegnante, adesso sono in pensione da una decina d'anni ormai, ma la scuola è stata una palestra molto importante per la narrazione delle fiabe e anche la lingua 2 per me, perché ho scoperto che anche lavorando, insegnando lingua seconda, usare la fiaba era molto efficace. E, è uno strumento che puoi usare sia, nel sia per favorire l'apprendimento della lingua madre, della lingua 2, delle lingue straniere. È efficace per, è uno strumento che favorisce la, uno sviluppo armonico della personalità, perché mette insieme la parte dell'immaginario, che è un mondo che nel bambino prevale fino all'adolescenza, poi pian piano scomparirà, cederà il posto alla parte razionale, non scomparirà mai del tutto, e quindi mette insieme il mondo dell'immaginario col pensiero logico razionale, e sono due parti entrambe molto importanti della, della personalità e che vanno sempre tenute in, in rapporto tra loro. La fiaba è una, uno strumento molto importante per questo, e, anche perché il mondo dell'immaginario a volte non si pensa, ma è proprio il mondo magico, anche il mondo magico del bambino, è alla base di ogni produzione creativa, di ogni produzione artistica e della produzione poetica in generale. È alla base del sogno, è la stessa sostanza, ci aveva insegnato Fromm, la stessa sostanza del sogno proviene dall'inconscio ed è la parte creativa di ognuno di noi. Quindi favorire questo e mettere insieme le due parti della nostra psiche, l'inconscio e la parte razionale, è un lavoro, diciamo, importante anche. Io comunque l'ho usato in lingua 2 e lì chiaramente ho cominciato a narrare. Poi un altro passo per me importante è stato quando ho fatto una formazione di psicologia dell'immaginario, dove ho cominciato a usare la fiaba e la pittura nei laboratori, e è stato per me molto molto interessante questa formazione. E poi ho anche in scuola, ogni tanto praticavo qualche laboratorio e fuori scuola, quindi proprio nei laboratori di fiaba e pittura, lì mi sono dedicata di più alla fiaba, ricorrevo all'immaginario dei ragazzini, e è lì che ho iniziato ad approfondirla di più. L'ultimo passo che ho fatto è stata una formazione come narratrice vent'anni fa, dove lì sono passata da narrare ai bambini piccoli a narrare a un pubblico misto, genitori, nonni, bambini, che è il pubblico più bello quello, poi, perché è un pubblico interessante, perché si stabilisce un contatto proprio intergenerazionale, una comunicazione intergenerazionale, e quando l'adulto narra, o io, un qualsiasi genitore, mamma, nonni, adulti, insegnanti narrano ai bambini, questo gioco di comunicazione che avviene attraverso gli sguardi, i contatti, attraverso la mimica attraverso le figure della fiaba e la struttura della fiaba affascina moltissimo il bambino. E l'adulto si diverte e si lascia andare quando vede che il bambino si diverte e ride o sorride oppure passa momenti di paura e poi li supera. Nello stesso tempo il bambino che vede che l'adulto partecipa emotivamente e si diverte, il bambino stesso si sente rinforzato, accettato per quello che è, con il suo mondo, che è ancora prevalentemente un mondo magico, animistico, mondo dell'immaginario, e si sente valorizzato. E quindi c'è un circuito molto positivo nella comunicazione tra adulti e bambini. E anche l'adulto, e ne beneficia anche l'adulto, perché è un percorso a due, di andata e ritorno, insomma, non è unilaterale, così come l'insegnamento non dovrebbe essere. Infatti si parla di insegnamento, apprendimento di una lingua, non solo di una lingua o di una materia. E, ecco, non so se ho risposto. Che poi l'immaginario, per fortuna, che ci resta, è l'unica, quasi una delle uniche cose che condividiamo con i bambini. Pensiamo solo ai film di Harry Potter, del Signore degli Anelli, sono andati più gli adulti a vederlo, anche se è un mondo favolistico, no? Il genere fantasy prende gli adolescenti e prende gli adulti, e non è, ed è, non scompare mai questo aspetto. Come per dicevo, fortuna, è alla fonte autentica, energetica, diciamo, della creatività in tutte le sue forme. Ma ti ricordi il momento in cui ti è venuto in mente adesso scrivo una fiaba anch'io? Sì, ma io non ho fatto tante fiabe, ne ho fatte alcune pubblicate, alcune no. Sono più una che si occupa delle fiabe altrui per rivisitarle, tornare a farle splendere, e qualcosa però ho scritto anch'io, sì. Ed è stato proprio, come dicevo prima, nei laboratori dell'immaginario che ho iniziato, quando si costruivano insieme le storie con i bambini, si costruivano pezzi di storie, finali, liberi. Davo degli input io, spesso con fiabe tradizionali, ma anche inventando, soprattutto nei momenti di impasse emotivo, perché era un lavoro, diciamo, psicopedagogico, un po' a cavallo tra i due ambiti, e lì ho inventato alcune storie. Poi, diciamo che il primo passo in cui le ho, un altro passo importante è stato quando le ho raccontate alle mie nipotine, no? Ho iniziato a una volta che ho raccontato una storia che ricordavo dell'infanzia, che ci raccontava sempre nostro padre alla sera, prima di uscire, spesso aveva degli impegni, e ogni sera ci raccontava una storia a puntate, e ogni volta noi chiedevamo di proseguire con questa storia perché ci piaceva e ci divertiva. E allora lui, durante il giorno che lavorava, si inventava durante le sue attività varie come andava avanti questa storia e proseguiva la sera dopo. Ed erano le storie più belle per noi. E queste storie avevo iniziato una, che ricordavo l'inizio, a raccontarle a una delle mie nipotine. E siccome aveva la stessa reazione anche lei, erano storie senza finale probabilmente, perché i bambini vogliono sempre un finale nella storia, allora lei dice: come va avanti, come va avanti? E allora ero lì anch'io costretta a fabulare, inventando poi il finale. E quando ho visto che questo piaceva, lì è stato il momento in cui ho pensato: ma potrei farlo anche per altri bambini. E quindi, pensando al finale, ho cominciato a scrivere sul computer, e da lì è nato Giuseppe le streghe matte, che era questo, un omaggio a mio padre, credo, e anche, insomma, un esercizio sul campo. Ah, vedi, proprio bene, bene. Quindi non ci sono fiabe tradizionali che ti hanno ispirato? È partito tutto principalmente dal... No, mi in altre storie, sia nei laboratori che in altre storielle che ho buttato giù, qualcuna l'ho messa anche nei libri. C'è comunque la struttura della fiaba tradizionale, perché io penso che è una forma di letteratura classica che non tramonta mai, e ed ogni, poi magari possiamo anche parlare della struttura della fiaba e dei personaggi di fiaba, anche le storie del fantasy moderno, Il Signore degli Anelli che hai nominato ed altri, si rifanno tutte alla consapevolmente o non consapevolmente o inconsapevolmente, si rifanno tutte alle fiabe classiche tradizionali. Certo. Poi sono ci sono vari generi, ma ecco, dentro nelle mie storie ho messo, sono partita in Alberi Incantati, c'era un mito molto bello sul frassino, l'albero cosmico degli scandinavi, e lì ho imbastito io il proseguo della storia, perché mi era piaciuta, proprio sono partita e ho proseguito a testa, tessuto il resto. In Fiabe d'Inverno sono partita da una leggenda locale, su una leggenda che viene proprio qua dalle Alpi, dai paesi intorno a casa mia anche, dalle valli, ed è sono le leggende della stempa, che è la Frau Holle in Germania, qui in loco si chiama Frau Berta nelle zone alpine, e in questi paesi qua in dialetto sudtirolese la chiamano Stampe, che è però il volto terrifico di Frau Holle ed è il corrispettivo della Befana, ma della Befana cattiva. E anche noi abbiamo delle Befane buone e cattive nelle varie regioni. Cattive, poi adesso il perché bisogna anche vedere cattive, ma ecco, avevo messo insieme le leggende sulla Stampe ed è venuta fuori poi alla fine una fiaba che è mia, ma che rispettava. Mm-hmm. Sì, ho capito. Mm-hmm. Ecco, quindi un po' così lavoro. Però sentiamo un attimino una storia. Sentiamo una storia. Un pezzettino, eh? I Bambini Radice, che è una storia di Sibylle von Holfern, che è un'autrice già dei primi del Novecento, dicevi. Quando l'inverno sta per finire, Madre Terra sveglia dolcemente i Bambini Radice ancora addormentati. Sveglia, sveglia bambini, tra poco là sopra sarà primavera. Ed ecco che la schiera dei Bimbi Radice apre gli occhi e stiracchia per bene braccine, gambette, passandosi le dita tra i capelli ingarbugliati. Tutti si preparano in fretta e ognuno si cuce la sua bella veste di primavera. Con ago, forbici e ditali si mettono rapidi al lavoro. Completata l'opera, ogni bimbo porta il suo vestitino Madre Terra, che lo ricama e lo adorna amorevolmente. Ma i compiti non sono finiti. Ogni bimbetto prende pennello, spazzola e colori e si mette a dipingere gli insetti uno per uno dalla testa ai piedi. E quando arriva la primavera, escono tutti quanti in fila da sottoterra. Poi passa la primavera, passa l'estate, ma arriva anche l'autunno. Con le sue tempeste e il vento infine trascina i Bambini Radice laggiù nel sottosuolo e li affida nuovamente a Madre Terra, pronta ad accoglierli tra le sue braccia. Andate tutti quanti a letto, sussurra lei affettuosamente, e mi raccomando, dormite per benino fino alla prossima primavera. E a questa che disegno molto, molto carino. Questa Sibylle von Holfern, dall'inizio del Novecento, fine 800, inizio del Novecento, ha scritto parecchie storie per bimbi, proprio piccolini, diciamo, e ha fatto delle istruzioni bellissime, credo che abbia allietato l'infanzia proprio di quel periodo, istruzioni molto molto belle, naif, ma inventate da lei, tutte con un suo stile particolare, e che difficile riprodurre, che hanno fatto storia in quel periodo, i primi del Novecento. E mi sembrava bello fare un omaggio a lei. No, è molto, veramente molto carina. E credo che questa piaccia ai bimbi piccoli, per esempio. Il libro è pensato dai 6 anni in su, ma questa va bene dai 3, 4, 5 anni. Si vede che ho quell'età mentale, perché a me è piaciuta subito tra le tante. Come sono nate, come ti è venuto in mente di fare queste raccolte, le fiabe d'inverno e fiabe di primavera, e forse anche in mente già qualcos'altro, no? E anche alberi intonati. E anche alberi, è tutta una raccolta. Come mai hai deciso di fare questo tipo particolare? Ognuno ha una sua storia, come è nato, no? Mm-hmm. Questo è quello, il primo libro. Allora, diciamo che io narrando nelle biblioteche, nelle scuole, fuori, in vari luoghi, mi sono accorta a un certo punto di avere una valigia piena di storie belle, di storie da varie parti del mondo. Avevo fatto anche una ricerca per una biblioteca su fiabe dal mondo e su questi archetipi comuni che ci sono nelle storie di tutto il mondo. E allora arriviamo a questo secondo libro. Questo secondo libro è nato anche da un'esperienza sul campo, perché avevo fatto un laboratorio un laboratorio di espressività interdisciplinare in una scuola elementare di Bolzano, e nel pomeriggio, e il tema erano, penso di averlo dato io, il tema sugli alberi. Quindi era a cavallo tra l'osservazione scientifica, insomma, portavo anche foglie, osservavamo le foto degli alberi, perché eravamo all'interno, quindi di educazione, di osservazione scientifica, di educazione all'immagine, con varie immagini dipinti vari, e anche interculturale, perché prendevo storie di varie parti del mondo guardando anche un pochino la composizione del gruppo. C'erano bambini che venivano da diversi paesi, quindi ho imbastito per un anno, mezzo anno, un laboratorio sugli alberi, raccogliendo storie incentrate o dove comunque compariva come protagonista l'albero, provenienti da varie parti del mondo, e mi sono accorta che piacevano. Oltre che piacere a me, piaceva questo tema ai bambini, e che ci avevano messo parecchia entusiasmo, parecchia energia. Finito questo laboratorio, ho pensato anche lì che potevo andare avanti con la ricerca, che poteva diventare qualcosa per tutti. E infatti non c'erano pubblicazioni di questo tipo, credo che sia stato il primo, e non ne avevo viste per ragazzi così. Allora mi sono messa a studiare, a ricercare. Ho fatto poi anche, perché all'interno di questo libro ci sono delle schede di botanica, delle schede di mito e folklore, e quindi c'è stato un lavoro parecchio approfondito dietro. Poi una mia collega e amica illustratrice, sì, qui c'è sempre dietro la scheda, quindi è un lavoro che si può, un libro che era stato pensato anche per introdurlo nelle scuole, e di educazione interdisciplinare attraverso varie discipline. Va bene per le classi, per il secondo ciclo delle scuole elementari, ma anche, dipende a quali livelli si fa, e anche per le scuole medie. E, è stato illustrato da una amica, una brava illustratrice, Sonia Tubaro, di Castelrotto, abita a Castelrotto, italiana di Udine, ma vive a Castelrotto. E, sì. È stato tradotto poi anche in tedesco. Ecco, così è nato questo secondo libro. Il terzo libro, Fiabe d'inverno. Allora, ne narravo tante di storie d'inverno nelle biblioteche, e giravo nelle librerie a Natale a guardare tutti questi bellissimi banchi pieni di libri stupendi che venivano soprattutto dalla Germania e da altri paesi del mondo, e mi affascinavano tanto. E non trovavo niente in lingua italiana, nel campo del libro italiano, praticamente del libro natalizio, se non la storia della, come si chiama quella di Dickens, la storia di Natale, il canto di Natale di Dickens, che è bellissimo, ma quello c'era, e poi c'erano storie ispirate a Babbo Natale e le renne, e non trovavo altro. Dopo sono uscite alcune raccolte, ma anche lì c'era il deserto su questo. Allora ho pensato, adesso mi metto a fare qualcosa, cioè una motivazione per mettere insieme le storie che conosci e far qualcosa. E allora lì, il primo libro, avevo iniziato a fare anche dei disegni così, provato. Nel secondo libro, in Fiabe d'inverno, ho ripreso le illustrazioni a matita. Il Fiabe d'inverno era, diciamo, è stato un esperimento interessante, perché, te lo do, voi... Mm-hmm. Così posso mostrare. Ecco, ho messo insieme degli scontri, delle leggende, delle fiave leggende e delle foto, scorci d'autore, delle foto abbastanza belle che mi hanno regalato, messo a disposizione, qualcuna l'ho fatta io, ma le più belle le hanno fatte dei fotografi. E se posso far vedere questa, ecco. Su delle veline trasparenti, che carta da geometri, ho fatto, ho disegnato a matita uno dei personaggi della fiaba, inserendolo nel paesaggio. Questo è uno delle tante. E questo esperimento delle veline sopra le foto è piaciuto parecchio, però nella ristampa non me l'hanno più fatto perché costava troppo, insomma, hanno dovuto attaccare e incollare a mano ogni, non so, per questioni di petrolio. Ecco, delle colle che hanno dovuto incollare a mano tutte quante le 800 copie che erano la prima edizione, e questo dei troll. E quindi nella ristampa non ci sono più le veline, ma insomma, diciamo, in questo senso è un'edizione fra virgolette storica, perché non ne trovi di questo tipo. Così è nato il secondo libro, il terzo libro, il Fiabe d'inverno, che ho, diciamo, che ho suddiviso in questo modo. Bello questo anche. È molto suggestivo, no? Avere l'immagine sopra. È suggestivo. Però è così che sono nate le leggende, no? Cioè dal paesaggio, dal vissuto del paesaggio, è nata poi la leggenda. La prima realtà era il paesaggio, la natura, e da lì sono nate l'immaginario, cavalcando, ha prodotto le leggende. Quindi ho ripetuto lo stesso hit in questo modo. Ed volevo proprio portarlo al pubblico di lingua italiana, perché il primo capitolo raccoglie storie sul passaggio sul solstizio invernale, praticamente storie dei popoli nordici, vengono da tutta l'Europa queste fiabe, leggende, e il secondo capitolo è incentrato sulle storie di Natale, il terzo capitolo invece sulle storie di Frau Holle, la regina della neve, che per noi è un concetto, per noi altoatesini soprattutto, per i bambini di lingua italiana, nel resto delle regioni lo collegano alla fiaba di Grimm, di Frau Holle, ma esiste una serie infinita di leggende su Frau Holle, che non è solo la regina della neve nel mondo di lingua tedesca, ma è la, diciamo, la grande figura della grande madre, signora del tempo, signora della natura in tutte le sue forme. Quindi quando scuote il piumino viene l'inverno, ma è anche quella che fa fiorire poi, rifiorire la natura in primavera, quindi è l'emblema della grande madre, che poi nelle regioni alpine appunto porta il nome di Frau Berta fino in Slovenia, e anche noi in Italia abbiamo la Berta, no? La Berta che filava, la Berta che fila, soprattutto nel centro nord. C'è anche lì questa figura, e poi c'è la figura della Befana, che è il volto, che ha due volti, come del resto anche Frau Holle, due volti, il volto dolce, benevolo, che è la natura benevola verso gli esseri umani, con i suoi doni, e il volto terrifico della morte, perché la natura, la vita contiene naturalmente questo aspetto, quindi ha tutti e due gli aspetti che sono stati personificati questa figura femminile, e da noi e anche in altri paesi la Befana ha anche ambedue gli aspetti, no? Di vecchia, diciamo che l'aspetto dell'amo che muore, della natura come vecchia, insomma, mentre la Frau Holle ha tutti e due gli aspetti, sia di giovane che di vecchia. Ecco, diciamo che in tante sfaccettature, innumerevoli sfaccettature, è l'emblema della grande dea, della grande madre. E queste storie di Frau Holle qui ho messo quelle dell'inverno, invernali, e non quelle primaverili ed estive, volevo farle conoscere a un pubblico italiano, ecco perché mi sono messa un po' di punto per buttare giù sto libro, che ho visto che è anche piaciuto. L'ultimo è nato anche questo. Avevo fatto per la figlia di una mia amica un libretto confezionato da me per il suo compleanno, mettendo delle storie di primavera. 5-6 e poi da lì passarono gli anni e ho detto riprendiamolo e lavoriamoci lì su e andiamo alla ricerca di nuove storie ed è uscito Fiabe di primavera. Quindi Fiabe ne lette tantissime. In base a cosa le scelte poi per inserirle? Adesso lì ne hai spiegato e inserire, come hai fatto a sceglierle? Perché ce ne sono veramente tantissime, poi spaziando per tutto il mondo. Allora, come ho fatto a sceglierle? Narrando e lavorando con i bambini e con gli adulti ho imparato a capire quali possono piacere di più e mi sono fidata del mio immaginario, del mio gusto estetico, soggettivo per tutti, ma mi sono fidata del mio e ho scelto poi quelle. Allora, ho fatto un mix tra quelle più famose, più note, che meritano di essere inserite in una collana, ma molte sconosciute, proprio per farle conoscere, che secondo me meritavano di essere portate alla luce, portate in pubblico, e ho messo anche parecchie storie sconosciute o poco conosciute, e ne ho scelte di semplici, dipende un po', qui sono un pochettino, il pubblico è dagli 8 ai 99 anni, diciamo così, perché le ho pensate anche per gli adulti, e questa intorno anche dagli 8 anni in su, mentre questo è fatto per bambini dai 6 anni, bambini ed adulti, allora qui forse ci sono storie più semplici, ne ho raccolte di semplici, lineari e che io ritenevo poetiche, anche profonde, e anche di molto, molto leggere, e Ilari, e le due cose tutte, non si escludono, insomma, la poeticità ci deve essere come e la profondità anche del significato ci deve essere dentro, ma in ogni storia, se la guardiamo bene, c'è un messaggio, c'è qualcosa che coinvolge, che affascina. E niente, volevo solo il paragone che mi è venuto in mente in questi anni, che io richiamo per chi fa questo lavoro di raccolta di fiabe, è un po' questo il paragone che io porto ogni tanto. Io faccio come le raccoglitrici di frutti di bosco, che vanno nel bosco, raccolgono fragoline, lamponi, mirtilli, amore, scelgono naturalmente le più dolci per metterle nel cestello e venderle al mercato. Più dolci, i frutti, e qua un'altra cosa, non solo più dolci. No, non metto dolcinamenti in genere, non ne metto nelle storie. E oppure mi piace pensare anche alla raccoglitrice di perle, né? Quelle donne delle isole dei mari del sud che si immergono, raccolgono le perle, le portano in superficie, ma però prima di venderle devono fare tutto questo lavoro di liberarle dalla conchiglia, dall'ostrica, dall'involucro, lucidarle, lavarle e solo allora rilucono, si dice, in tutto il loro splendore. E così ogni tanto quando io mi immergo in questo studio mi sembra proprio di andare alla ricerca di piccole perle. È un lavoro che dà anche gioia. Allora leggiamo una perlina che a me sono tutte molto delicate, poetiche in effetti, queste fiabe dedicate alla primavera, anche la tematica probabilmente. A me in particolare piace quella che poi ha dato, cioè il cui disegno, ecco, è arrivato in copertina, ed è Il segreto della fanciulla del pruno, ed è una fiaba giapponese, giusto? Molto onirica. Allora, sentiamolo un pezzetto. Un bel mattino di primavera, Taro andò a pescare al fiume. Si sedette sulla riva e buttò la lenza in acqua, ma nessun pesce abboccò. Pensò allora di risalire lungo la corrente, forse lì ne avrebbe trovato qualcuno. Prese il suo cesto, si mise la lenza in spalla e si avviò. Il sole splendeva tiepido. Giunse ad un certo punto in un luogo dove non era mai stato prima. Si guardò intorno, poi all'improvviso sentì un canto meraviglioso, ma non sapeva da che parte provenisse. La voce era così melodiosa da non potersi descrivere. Taro la seguì e vide una fanciulla che lavava i panni al fiume cantando. Lì vicino fiorivano dei pruni e il profumo delicato dei loro petali si espandeva nell'aria. Il giovane ascoltò affascinato quel canto, poi la ragazza si alzò, prese i suoi panni e si diresse verso casa. Taro le corse dietro raggiungendola. «Aspetta un attimo», le disse. La ragazza si volse verso di lui. «Che vuoi da me?» E Taro: «Stavo pescando e mi sono perso. Sai dirmi dove mi trovo?» «Sei nel regno dei pruni», rispose lei. Guardate che regno, è bellissimo. Ah sì, al tecnico posso chiedere se rimetti su quello dei pruni? Questo rosa qua? Grazie. Sì, è una storia bella. Perché ti è piaciuta, se posso chiedere? Perché è onirica, c'è poi questa parte del sogno, no? Che è, per me è molto, molto affascinante, mi è piaciuta proprio perché è un po' diversa dalle altre sotto questo aspetto. Sì. In questa storia, che poi chi è curioso se la guarderà, se la legge, c'è nelle biblioteche, sì, in alcune biblioteche, o se no si trova o qui magari, chi ha voglia di leggerla. Intanto anticipavo, non dico il finale della storia, qui si presenta in questa storia il motivo del che c'è in tutte le fiabe, in molte fiabe, non in tutte, della stanza proibita, o dell'oggetto che non... Il motivo della stanza proibita, che non si può entrare, non si può vedere cosa c'è, oppure a volte è anche un oggetto, un cesto. Pensiamo al vaso di Pandora, per esempio, nella mitologia, che non si poteva aprire, non si poteva guardare cosa c'era dentro, però poi sappiamo cosa è successo. Questo motivo, però... Pensiamo anche non solo alla stanza proibita, al frutto proibito a volte, come la mela, cioè l'albero della vita e l'albero della conoscenza, che certo, sembrava un frutto proibito, in realtà se non avessimo mangiato quel frutto non ci sarebbe stata la libertà, la responsabilità, la storia si sarebbe fermata. La stessa cosa succede nelle fiabe, quando c'è un divieto, il divieto c'è per essere rispettato, ma... Anche i giovani hanno dei limiti, e però la trasgressione avviene quasi sempre, se rimane poi nei limiti e non diventa una cosa, non diventa un sistema di vita, la trasgressione fa, certo, fa crescere. E quindi questa è una di quelle fiabe lì dove c'è questa crescita attraverso la scoperta della, non della stanza, ma dei cassetti. Sì, all'interno, sì, sì, in questa casa ci sono... Basta lì. Mi fermo qua. Eh sì, perché sennò racconti tutto, che gusto qua c'è poi. Punto. Allora, però, ce n'è anche una che preferisci tu, o che ti piace particolarmente, c'è un motivo, insomma. Anche, sì, no? È difficile scegliere quale di più, ma cos'è che potrei... Anche un accenno, non... Un accenno. Non si può raccontare tutto. Perché no, non la racconto. Curiosino. Certo. La racconto. Dai, la raccontiamo. Ma sì. Mi piace. Così sentiamo anche mi come piace, racconta, no? Diciamo bene. Diciamo che no? Ce ne sono due, tre. Che, il prato rinato, che forse tu leggerai, vero, se non sbaglio, che mi piace molto. Poi mi piace il mito dell'inizio, che è un mito finlandese sulle origini della vita e del cosmo. Ma piace anche una storiellina semplice che è venuta che è nata a scuola, sui banchi di scuola, in varie prime medie, e che io ho messo un po' insieme. Ho messo il mio nome come autrice perché era difficile, cioè era praticamente nata in tante classi diverse, quindi non sapevo più cosa. Ma ho tirato le file, ho scelto le varie soluzioni messe insieme dai bambini e ho dato poi una struttura, ed è la primavera pigra. La primavera pigra, quello mi piace, perché rispecchia un po' anche il mondo degli adolescenti, dei bambini e degli adolescenti. Questa primavera che non si decide a venire sulla terra, ce l'hai l'immagine, c'è quella con quella ragazza con i capelli biondi sottoterra, sopra c'è l'inverno, sotto c'è la... Eccola qua. E c'è la primavera che... un anno, certo punto uno dei una primavera, la primavera si è addormentata e non si decideva a venire sulla terra. E quindi tutti l'inverno andava a sollecitarla, dai, tutti hanno freddo, hanno fame, si lamentano e così via, insomma, la primavera non voleva arrivare sulla terra. E alla fine cosa fa? Manda la figlia, che però era inesperta, giovane inesperta, e combina parecchi guai. Ed ecco, però poi con l'esperienza anche la figlia cresce e fa, produce le meraviglie che produce la primavera, che produceva la madre, quindi diventa creatrice a sua volta e un pochettino rispecchia anche le ansie e i desideri delle donne, delle ragazze in questo caso, che vogliono a loro volta creare e i primi pasticci della ragazzina non sono all'altezza, ma dopo matura, era carina. E poi io, quando ho illustrato questa storia, alla fine ho detto, ma mi sembra Persefone sottoterra, no? E Persefone, nella mitologia greca, la figlia di Demetra, la regina, la dea della terra, del mano, e così ho pensato, ma guarda come si incrociano gli immaginari, il mito e l'immaginario infantile, e il mio immaginario mentre lavoravo, non sapevo di fare quella cosa lì, e poi è uscita. E i miti sono i nonni praticamente delle fiabe. Si trasmettono senza che noi sappiamo. Sì, sì. Questa poi una che mi piace, che si intitola La ragazza dei papaveri, una fiaba che viene dalla Grecia, mi pare, o dalla Romania, adesso non ricordo. Quello non me la sono. Però diciamo, Grecia. Dalla Grecia. E allora questa fiabetta è. Poi vi dico perché mi piace alla fine, ne racconto un pezzettino, la racconto tutta, vediamo. Una si può ben svelare, allora la svegliamo. Vai. Era primavera, era maggio, e una vecchia un giorno mandò la sua figliola a raccogliere delle radici nei campi. E la ragazza, che era ancora molto giovane e svagata, dopo un po' vide un meraviglioso prato di papaveri e decise di lasciar perdere con la raccolta delle radici e cominciò a raccogliere fiori. Ne raccolse un mazzo enorme e, non contenta, si fece delle ghirlande, si acconciò i capelli e, non contenta, tirò fuori l'ago e il filo che aveva dietro e cominciò a cucirsi sul vestito una miriade di papaveri, tanto che le farfalle che passavano da lì la scambiavano per un fiore. E proprio in quel momento passarono da quelle parti le tre fate della buona sorte. Le fate della buona sorte, che vedendo questa creatura così acconciata, scoppiarono in una fragorosa risata. E chi rideva di più, chi rise di più, era la fata più giovane, che da anni non rideva più. Allora le tre fate si fermarono e dissero: poiché hai fatto sorridere, ridere nostra sorella, ti vogliamo augurare la buona sorte. E la prima disse: io ti auguro che quando tu apri la bocca ne escano diamanti brillanti. E la seconda disse: io ti auguro che quando tu apri la bocca ne escano fiori, rose e gelsomini. E la terza disse: dico a te, fanciulla, che mi hai fatto ridere, che era tanto che non ridevo più, a te auguro di diventare la più bella ragazza del regno, che quando passerà un principe a cavallo, che tra poco passerà, rimanga abbagliato dalla tua bellezza. E poi le tre fate sparirono e la ragazza d'incanto si trasformò e divenne una meraviglia. Di lì a poco, come avevano detto le fate, passò al principe a cavallo e, come tutte le storie, Si fermò davanti alla bella e rimase affascinato e fu amore a prima vista. E disse, ma, rivolgendosi a Asma, ma sei una creatura dell'aria? O sei una donna in carne ed ossa? E la fanciulla rispose, una donna in carne ed ossa? Avvicinati! E così il principe si avvicinò e la prese per mano. E via, che fuggirono sul cavallo bianco, come tutte le fiabe che si rispettano. E la portò alla corte e la presentò alla madre. E quando la madre la vide questa bella fanciulla, disse, ma figlio mio, ma sei sicuro di quello che fai? Ma questa è una creatura dell'aria. Ma no, madre mia, che non è una creatura dell'aria. È una donna in carne ed ossa, rispose anche il principe. E tanto disse, tanto fece il giovane principe che riuscì a convincere la madre a lasciarlo sposare questa bella fanciulla dell'aria. E che voi ci crediate o no, passarono parecchi giorni felici insieme, finché un giorno la nuova regina stava pettinando in camera da letto il suo sposo, come ogni tanto facevano le regine di una volta, e a un certo punto scoppiò a ridere. E il principe, sbalordito, le chiese, ma perché ridi? Cosa c'è da ridere? Oh, davvero? Sposo mio, no, non te lo posso dire. Dimmi perché stai ridendo adesso. Rido perché, e scoppiò a ridere ancora più forte, perché la tua berretta assomiglia alla scopa che tenevamo nel nostro, in casa nostra, prima che io venissi ad abitare qui da te. Figuriamoci, il re, ex principe divenuto re, paragonato, sentendosi paragonato alla sua barbetta ad una scopa, andò su tutte le furie e s'arrabbiò da matti con questa moglie screanzata che si permetteva di, e immediatamente convocò il consiglio di corte e il consiglio dei 12 decretò che la sventurata giovane moglie doveva o essere decapitata o scacciata dalla corte. Per fortuna, perché c'è sempre un per fortuna nelle storie, o un ma, le tre fate della buona sorte erano venute a sapere di questa disgrazia della loro protetta e decisero di darle una mano un'altra volta. Così si trasformarono in tre giovani baldi principi. Salirono su tre meravigliosi vascelli e si misero in viaggio. E prima di arrivare al porto vicino al quale si trovava il castello dei nuovi re e della nuova regina, spararono in aria tre colpi di cannone. Allora tutta la servitù si precipitò al porto a vedere chi arrivava e andarono ad avvisare il principe che il re, che c'erano dei tre ospiti stranieri di rango, di riguardo. Il re si vestì come doveva vestirsi in questa circostanza e andò ad accogliere i tre principi stranieri. E questi si presentarono, le tre fate, si presentarono dicendo, maestà, abbiamo sentito che nostra sorella è convolata a nozze con voi, vorremmo tanto vederla perché sono anni che non la vediamo e porgerle le nostre congratulazioni. E così il re, lusingato, fece accomodare i tre principi stranieri alla corte, li invitò a un banchetto sontuoso, non era stata invitata la sposa però, e poi li fece accomodare nella sala della stanza della sposa. I tre principi si trasformarono immediatamente nelle tre fate della buona sorte e così dissero alla fanciulla, ma che cavolo ti è venuto in mente? Ma cosa ti è venuto in mente? Ma non hai capito che rischiavi la sorte? Però, visto che sei stata, che hai fatto ridere nostra sorella, ti vogliamo aiutare per una seconda volta. E le misero in mano una scopina minuscola, tutta oro, argento, diamanti, sfavillante, e dissero: appendila dietro alla porta della tua stanza, e quando il re, tuo marito, tuo sposo, entrerà nella stanza e si accorgerà di questo oggetto, dirai che questa era la scopa che tu, che voi tenevate a casa vostra, e vedrai cosa succede. Ma mi raccomando che non ti vengano altri colpi di testa in mente, perché rischierai grosso, dissero le tre fate. Così dicendo, uscirono di nuovo, si trasformarono nei tre baldi principi e se ne partirono sui loro vascelli. Di lì a poco, il re, curioso, entrò nella stanza. Chiudendo la porta, si accorse di questo oggetto che sfavillava appeso su e disse: che cos'è questa cosa qua? E la sposa rispose: è la barba, cioè è la scopetta che usavamo a casa e a cui ho paragonato la tua meravigliosa barba. Proprio così. È la scopetta che tenevamo a casa mia prima che io venissi nel tuo castello. Il re naturalmente spalancò la bocca, gli occhi, e pensò: ma che errore che stavo facendo, stavo cacciando questa mia dolce sposa che aveva paragonato la mia barbetta a una cosa così preziosa. Ma che disgraziato che sono stato, per fortuna che non l'ho ancora fatto. E così i due si riconciliarono e da quel giorno andarono d'amore d'accordo. Possiamo crederci, possiamo non crederci, nessuno di noi è stato invitato al pranzo di nozze, vero? Non è arrivato né io né voi, però possiamo crederci, possiamo non crederci. Visto come racconta? Ho scelto questa storia brevemente ancora perché... L'ho messa dentro, l'ho inserita, perché voi sapete, no, che in ogni, nelle fiabe classiche, nelle fiabe di corte, nelle fiabe, in ogni tipo di tipologia di fiaba, oltre all'immaginario entra anche la realtà storica, ci sono degli elementi del reale. Per esempio, nelle fiabe di corte ci sono i castelli, ci sono le regine, il re, ci sono dei ruoli stereotipati delle donne, per esempio della donna che aspetta il principe azzurro seduta a lavorare, a ricamare, eccetera. Quindi in un ruolo passivo, ma non tutte, infatti molti genitori, a volte molte mamme di oggi si domandano se... raccontare queste storie serve, insomma, ad accrescere la coscienza, l'autocoscienza, la consapevolezza, l'autostima della donna, che non sono proprio adatte. In realtà, proprio perché entrano gli elementi di realtà, accanto alle fiabe di corte ci sono le fiabe popolari, e in molte fiabe popolari il ruolo della donna è completamente ribaltato. Nel Mediterraneo, nei paesi del Mediterraneo, in Italia, anche nel nord Europa, andiamo in Egitto, andiamo nell'Arabia, nei paesi arabi dove uno non se lo immaginerebbe mai, ci sono delle storie stupende di donne che, di ragazze, diciamo, popolane, può essere una contadina, fra virgolette, può essere la figlia del sarto, la sartina, delle figure di donna popolari che, pur essendo ingenue, di quell'ingenuità che è anche autenticità, sono talmente astute che sono in grado di mettere nel sacco i potenti, quindi c'è un ribaltamento completo dei ruoli. E queste storie sono quelle dove la fanciulla riesce a risolvere degli indovinelli difficilissimi che neanche i sapienti e i cortigiani e i consiglieri riescono mai a risolvere. Una volta risolto l'indovinello, finisce in lieto fine, che poi sposa il re, il principe, quello che è. E quindi c'è tutta una serie di storie divertentissime, ne abbiamo molte di fiabe italiane così, e anche, appunto, dicevo, provenienti da altri paesi. E allora questa, secondo me, si inseriva all'interno di questo filone, anche se chi c'è sempre chi è, cioè in questa storia c'è, ci sono le fatte, cioè l'elemento magico, no? Ma l'elemento magico, questo Deus ex machina, viene anche interpretato dagli interpreti, dagli studiosi della fiaba, molto spesso come un principio della psiche umana che, quando c'è un problema molto difficile da risolvere o superiore alle forze, umane, viene risolto da una potenza soprannaturale che nel caso della fiaba è la magia, è la fata che fa un dono, è il mago, eccetera, eccetera. Ma in realtà è un principio della psiche, in questo caso un principio dell'inconscio positivo, no? Che ti dà le risorse giuste per andare avanti, per voltare la situazione a tuo favore. E siccome la trovavo così simpatica, l'ho messa dentro e mi piaceva. Infatti me l'ho segnata la ragazza dei papaveri. C'è comunque un filo comune che lega, perché tu hai messo fiabe dalla Romania, Giappone, un po' proprio da tutto il mondo, però c'è un filo comune che le collega, che le leghi insieme, insomma, no? Che sia comune a tutte quante. Adesso tu parli di fiabe primavera o fiabe in generale? No, fiabe, ma adesso facciamo di queste, no? Di queste. Con fiabe di che è raccolto qua. Allora, posso fare, appunto, dare in questo senso due risposte. Le fiabe che ho raccolto qua le ho catalogate in quattro capitoli secondo quattro temi o punti. E nel primo sono le storie del primo passaggio dell'uscita dall'inverno alla primavera, quando l'inverno dà ancora gli ultimi colpi di coda, no? Certo. E tira degli scherzi meschini. Con il mutamento climatico ce ne accorgiamo ogni anno sempre più. E ce ne sono tante in diversi paesi. Il secondo capitolo è il risveglio dei fiori, quindi la primavera è un tripudio di fiori, di colori, e quindi ci sono delle leggende sui fiori primaverili, su Non ti scordare di me, i bucanevi, le primule, le violette. Quindi è la tematica che... La tematica che del fiore. No? Del fiore in questo caso. Quindi ci sono parecchie leggende sui fiori. Poi ho trovato come punto unificante anche, cioè c'è il tripudio dei fiori, ma c'è anche, ci sono gli animali che si risvegliano, è la stagione degli amori per tutte le creature, degli animaletti, dagli uccelli che ripongono le uova nei nidi, a tutti quanti gli esseri animali, diciamo. E quindi ci sono storie di animali, storie di... tante storie deliziose di uccelli, anche racconti contemporanei sul coniglio, carino, delizioso, sul coniglio di Pasqua inventato da una scrittrice di oggi, storie di uccellini, miti sulle farfalle, come giunsero sulla terra, e quindi il tema degli animali, del risveglio, degli amori, dell'accoppiamento. E l'ultimo è, ci ho pensato tanto come dividere questo libro, e mi sono venuti in mente questi quattro punti che alla fine ho trovato unificanti e che potevano avere un senso. E il quarto capitolo, in primavera, anche gli umani hanno bisogno di... Cioè, infatti, la stagione degli amori, soprattutto in antichità, quando c'erano i festeggiamenti dell'equinozio, no? Andavano nei boschi, si accoppiavano tutti i giovani, sì. E quindi fioriscono gli amori degli umani. E allora ho cercato di mettere storie che si chiamavano la primavera e che parlavano d'amore, come quest'ultima, per esempio, che abbiamo narrato. Questo era il punto, i quattro punti. Poi, se tu mi... non so se vogliamo parlare delle fiabe in generale, il discorso è lungo. Ah sì, infatti. Adesso non so se abbiamo tempo, forse passo direttamente all'ultima, cioè la penultima, all'ultima fiaba che... Sì, all'ultima fiaba. Salto il pratolinato, perché poi se dobbiamo parlare un po' anche dei burattini. Come vuoi. Comunque, andate a leggere il pratolinato, perché veramente è carino. C'è l'ultima fiaba, che è proprio di Maria Paola. Questa è mia, sì. Un insolito uovo di Pasqua. Allora, il tecnico non c'è, ma insomma è l'ultima fiaba e poi ti faccio vedere l'illustrazione. Allora, sì, l'illustrazione sarebbe questa. Che abbiamo visto prima. Praticamente il giorno, l'alba del giorno di una Pasqua, qualsiasi, diciamo, ad un certo punto appare in alto in cielo un uovo gigantesco tipo mongolfiera, e trainato o diretto da un airone, e sopra l'uovo c'è un coniglio. Vola in alto, vola sopra il bosco, e chiaramente quando gli animaletti iniziano a vederlo iniziano anche a chiedersi: ma che cos'è? E a fare le varie ipotesi. Allora, sbaglio, o quello sembra essere sbaglio, o quello sembra essere un uovo di Pasqua. No, non sbagli, pare anche a me, per l'appunto oggi è Pasqua. Ma dove starà andando? Ma cosa trasporterà? Qualche grossa sorpresa, immagino. Scommetto che contiene milioni di piccole uova di cioccolato, la nocciola, da nascondere nei giardini per i bambini come sorpresa mattutina. Ecco, il mio di Pasqua starà facendo il suo lavoro, insomma, no? Come la tradizione comanda. No, secondo me contiene migliaia di fiori e di semini da sparpagliare sui prati ancora bruni. No, secondo me là dentro ci sono tutti i bambini che devono ancora venire al mondo. Secondo me contiene gli animali in pericolo di estinzione. Il coniglio vorrà portarli in salvo dagli umani, come successe ai tempi dell'arca di Noè. Ma no, tutte sciocchezze, deve esserci per forza qualcosa di molto molto leggero in quell'uovo. Non vedete che chi lo guida e lo regge è un uccello? Forse un regalo per noi? Secondo me contiene milioni di piume e piumette per riscaldarci quando viene l'inverno. No, deve essere qualcosa di più leggero ancora. Ho trovato, grida un vecchio gufo. Non può contenere che fiabe già narrate, come quelle raccolte in questo libro, e tante, tantissime altre, tutte ancora da narrare. Non è il finale, bisogna leggerlo tutto per sapere come va. Grazie. Sì. Il concetto che sta dietro a questa fiaba molto... molto concettosa. Sì, è una fiaba un po' filosofica, ma a portata di bambini. E, ho messo questa fiaba alla fine perché si collega alla prima, e la prima era il mito di cui parlavo, un mito finlandese, sì, che parla dell'origine del cosmo da un uovo. E molti, molti miti, come molti di voi sapranno, che hanno un po' di dimestichezza col mito, fanno proprio derivare il cosmo da un gigantesco uovo cosmico. E quindi ho messo all'inizio questa bel mito che a me piaceva, dove il cosmo, le parti del cosmo nascono dalle uova di un'anatra che aveva deposto il suo uovo sulle ginocchia di una dea meravigliosa e distesa il mare, la dea dell'aria che era scesa dal cielo. Ancora non c'era nulla di nulla di nulla, buio assoluto e una distesa immensa del mare. E quindi ho iniziato con l'uovo, perché l'uovo è proprio per eccellenza, no? Simbolo della nascita, della rinascita. Quindi è primavera, con quale storia iniziare se non con una storia sull'uovo? E con quale storia finire se non con una storia sull'uovo? Un uovo gigantesco. Ma questa storia non nasce solo dalla testa, nasce da un'immagine. Ho fatto prima l'immagine, ho prima illustrato l'uovo e poi da lì mi è venuta la storia. E l'idea di fare questo uovo che ce l'avevo in testa da tanto mi è venuta a Praga. Avevo visto un uovo bellissimo, mezzo piazzato in un parco verde di Praga, Avete quelle uova gigantesche, non so se le avete viste a Pasqua, tutti dipinti con paesaggi naif, come fanno quelli dell'est. E così mi aveva colpito questo uovo. E poi dopo, insomma, lavorando dietro a questo libro, ho pensato, adesso faccio, provo a fare un uovo gigantesco, un uovo di Pasqua. E dopo è venuto quello, e da quello è venuta la storia. E questa storia finale voleva essere un omaggio alla creatività in generale, al sogno, al desiderio, perché intorno al uovo che viaggia in alto, no, tutti gli animaletti si fanno mille domande, come avete sentito, sognano, pensano, fanno ipotesi, ed è un po' anche, a parte che molti miti narrano che il cosmo è stato sognato da un creatore, che per lui, sognato, desiderato, immaginato. Gli stessi aborigeni australiani parlano nei loro miti degli antenati, che sono come degli dei, degli antenati mitici, che avevano creato il mondo sognando e cantando. Quindi questa era una bellissima immagine. Poi i miti che siano rispecchi in una realtà, che ci sia o non ci sia un creatore, lasciamo aperta la questione, ma sta di fatto che se pensiamo ai genitori, alle madri e ai padri, prima di dare alla luce, è vero, sognano, no? Sognano, immaginano il bambino, si chiedono che nome gli diamo, come sarà, a chi assomiglierà. Quindi alla base della creatività c'è l'amore, il desiderio, il sogno, e della creatività in generale, non solo della genitorialità. E quindi è stato un po' un omaggio alla creatività. Magari velocemente i disegni, perché sono bellissimi, proprio veloce. No, non possiamo, facciamo parlare magari anche loro. Ah, beh, questi sono fatti con che, almeno la tecnica. Allora, spiego un attimo i disegni. Io non sono, premetto, non sono un'illustratrice, disegnavo da bambina un po' e da ragazza. E poi ho iniziato così un po' con i libri. Su questo mi sono cimentata per la prima volta col disegno a colori e con l'acrilico, e ho pensato di fare due tipi di illustrazione diverse: quelli che illustravano i fiori e particolari della natura, altri elementi della natura, uccelli, farfalle, eccetera, in primavera, di fare tutto un lavoro abbastanza naturalistico con i pastelli, con i colori, con i pastelli colorati. E invece di illustrare i motivi delle fiabe, di fiabeschi, con l'acrilico. Non sono sicuramente uno specchio dei tempi, perché sono un po', come dire, come stile, come qualità, sono, diciamo, forse attempati, forse rispecchiano le raccolte di una volta. Ho avuto molti dubbi mentre lavoravo, però alla fine del percorso ho pensato, ma forse questo accostamento tra naturalistico e un po' immaginifico, anche naif, non lo so come definire, non avevo ancora, potrebbe essere uno stimolo per i bambini che leggono, anche per i genitori, di uscire fuori in natura e di guardare e di osservare tutta la bellezza che ci circonda, e quindi potessero essere, come dire, una strada per favorire un'educazione ecologica, anche un po' una sensibilità ecologica, certo, in modo che, diciamo, le parole rispetto della natura, amore per la natura, non rimangano realtà morta, ma se il bambino viene educato ad accorgersi della bellezza, certo, che ci circonda, allora è tutto un altro discorso. E allora ho rischiato di buttare fuori queste cose. Sono bellissimi, poi magari ne parleremo nella prossima presentazione, sì, per il prossimo libro. Questi burattini li ha fatti lei, sono spettacolosi, sono veramente bellissimi. Sì, perché appunto ogni tanto facciamo con le colleghe, facciamo degli spettacoli di burattini. Vabbè. Anche la borsa è bella, ma quella è mia. La borsetta a favola. Poi lo farà notare. Ci ho appoggiato apposta la ragazza sotto. Avete delle domande prima che, perché è durata abbastanza, no? Avete delle domande, qualcosa da chiedere? Per telefono me ne sta facendo una probabilmente. Come? Per telefono mi sta facendo una domanda, sto scherzando, c'ho il telefono che sta andando. Ecco, siete stati molto esaurienti. Sì, questo è anche vero, sì. Esaustiva. Ci avete dato lo spazio per le domande. Il discorso di fare un libro che vale sia per adulti che per bambini, come lo vedete? Io sono curiosa. Ma io ti posso dire una cosa. Mentre raccontavi, io pensavo alle tre fatte della sorte, della buona sorte. Vedevo il castello. Eri trasportato. Sì. E mi chiedo, insomma, sono un adulto, vado dietro a queste cose che non esistono, però vado dietro proprio, così come un salame, diciamo così. No, la narrazione ha questo potere, proprio. E questo il fatto è straordinario, no? Appunto pensare che noi siamo sempre legati comunque alla fiaba, al sogno, all'immaginazione, comunque, insomma. Per fortuna che ancora mi risveglio in questo senso. Se uno non si chiude e apre e lascia risvegliare il fanciullino, anche i poeti, come sapete, conoscevano bene questa parte di sé per poter uscire e scrivere poesie, se no non l'avrebbero mai fatto. No? Naturalmente, come dicevi te, scusate, devi tu. Certo. È proprio un dare o ricevere, perché nel momento in cui racconti, tu dai qualcosa, però il bambino, io dico il bambino perché è una nipotina che sente, ascolta, ti dà qualcosa di ritorno. Certo. È proprio questo, e quindi il fatto che anch'io sono stata lì a guardarmi le tre fattine, cioè io ero affascinata anch'io, però questo io penso, quando si racconta ai bambini, loro lo percepiscono, sentono che sei partecipe. Questa è una lettura, secondo me, non so se arriva proprio. Penso tutte e due le cose, dipende come le fai, no? Chi piace narrare e chi piace leggere. C'è un'arte della lettura, bellissima, c'è un'arte del narrare, sono un po' diverse, ma. Ma è da rivalutare, dire? È da rivalutare l'arte del narrare, sì, proprio. Quello che volevo dire, sì, è che mi sfugge. Scusa. Che quando comunichiamo con i bambini, nostri o altrui, in pochi o in tanti, in gruppo o in casa vicino al focolare, in questo modo siamo sullo stesso piano, cioè noi godiamo di un genere letterario che è la fiaba, sullo stesso piano, e il bambino lo sente, è per questo che sente anche. Voi sapete che sui vari personaggi di fiaba, ognuno, sia i piccoli ma anche i grandi, quando si lasciano andare, proiettano poi parte di sé. Quindi ci sono tutti i vari personaggi che ognuno rappresenta simbolicamente delle varie parti, che poi la fiaba è un viaggio, no? Come metafora, è una metafora della vita, perché la vita certo. È un viaggio. Così. Allora è un invito, questi libri sono un invito agli adulti a narrare ai bambini, a lasciarsi coinvolgere insieme, a divertirsi. Molti lo fanno, ma nella vita stressante di oggi non tutti, si preferisce metterli davanti alla TV, farli vedere un programma, magari un cartone animato, magari col telefonino a trafficare. E invece questo momento di intimità è bello, sia per i bambini ma anche per gli adulti, no? Infatti. Certo, come è successo a me. Mia figlia, che io ho passato tantissimo tempo certo. A leggere con mia figlia, lei ha letto tantissimo, cioè è stata dispiaciuta adesso che ha chiuso Cappelli, cioè lei era complicata. Infatti. Perché quando era aperto Cappelli gli ha detto, ma stai qui, vado con i clienti, perché aveva letto tante cose. E mi è venuta in mente una cosa, proprio quando ti ha raccontato di tuo papà, che ti leggeva la storia, cioè che se l'è inventata. Ecco, anche mia figlia, quando era piccolina, lei mi racconta la storia della lenticchia, che me l'era inventata, e poi era sempre. Quindi era una cosa che i bambini, magari anche se sono passati i tempi, però li chiedono. Ma si ricordano anche, perché la mia si ricorda ancora la storia dei draghetti colorati. E tutte le sere me la chiedeva, io la cambiavo sempre perché me la inventavo al momento. Dice, no, non è così, il draghetto rosso faceva questo. Certo, sì. Sì, perché e se poi... ricorda tuttora che ha qualche annetto, che ha 30 anni passa. Sapete bene, no, che i bambini vogliono sempre che la storia finisca nello stesso modo, sapete bene anche perché. È rassicurante. Infatti è molto rassicurante. Certo. Il fatto di cambiare i finali, o per esempio Rodari, no, è stato quello che per eccellenza ha stravolto i finali, ha sconvolto i canoni della fiaba. E questo è stata una invenzione geniale per favorire il pensiero alternativo, diciamo il pensiero, diciamo, astratto. Non mi viene pensiero laterale. No, astratto, no? Il pensiero divergente, allora, divergente, nel senso che tu non vai sempre con lo stesso finale uguale, identico. Questo è un lavoro interessante come un gioco, magari apprezzato di più dai bambini un po' più grandi, quarta, quinta elementare, prima media. Quei piccoli, il finale, come dicevi tu, è rassicurante, deve essere sempre uguale. E soprattutto un happy end, perché non possiamo andare a raccontare ai piccoli. Per quello si è selezionato quasi automaticamente negli ultimi due secoli la storia come genere dedicato ai bambini, che prima era un genere letterario per tutti, no? Era un genere popolare che raccontavano sulle aie, nelle stalle, nelle piazze, i cantastorie, non era dedicato ai bambini, solo dopo i Grimm, anche i Grimm quando hanno fatto la loro raccolta, quella non era dedicata ai bambini, era una raccolta perché non andasse perso un patrimonio importante, e dopo si è sviluppata, diciamo, quando sempre di più il pensiero razionale ha preso posto nella cultura generale, perché prima era un pensiero per elite, delle elite, delle corti, invece il popolo veniva educato con le fiabe, con le favole, certo. No? E man mano che questo processo si compiva, la fiaba è diventata, fra virgolette, degradata, ma non giustamente, un genere letterario, la fiaba con le happy end, diciamo, non le fiabe truci. E poi l'ultima cosa che dicevo, comunque viene usata in terapia oggi da parecchi decenni ormai la fiaba con gli adulti, proprio perché ci sono questi motivi di fiaba che prendono e sui quali noi proiettiamo delle parti di noi e con le quali si può lavorare molto bene in terapia. Portano anche dei cambiamenti, si può lavorare, ma ce l'ha insegnato Jung, ce l'hanno insegnato tanti, ecco. È una cosa seria, non è un gioco, fiaba, è un gioco bello. La fiaba è una cosa seria. La fiaba è una cosa seria. Bene. Forse c'è ancora qualcuno? Là? No. Allora adesso aspettiamo fiabe di estate e fiabe d'autunno. No. Come no? Prova a indovinare perché. Io dico no, non si sa mai, può darsi che escano. Che dici no? Stai facendo qualcos'altro? Non lo so, a me prende... Io credo che le fiabe più interessanti, forse, sicuramente ci sono anche fiabe d'estate, no? Raccolte sui frutti, no? Se vogliamo facciamo una fiabe d'estate incentrata sull'albero e sul frutto. E ce ne sono di bellissime, quello sì. Ma insomma, adesso per quanto chissà, usciranno anche quelle. Ma le fiabe per me più che prendono di più sono quelle del passaggio. L'inverno, dove ci sono le tenebre e c'è l'immaginario umano che sogna che arrivi nuovamente la luce. Pensate ai popoli nordici, immersi per mesi con la paura una volta atavica che il sole non uscisse più. È lì che sviluppano di tutto, anche di più, con la fantasia. In primavera è uguale, che c'è la natura che esplode, dà spazio alle fiabe più belle. Poi, magari, ecco, al momento io sono presa questi due stagioni, poi non si sa mai. Tu in che stagione sei nata? In autunno. E vedi che comunque sei produttiva anche tu. Fiabe in autunno. In autunno si mangiano i frutti. E castagne. No, ci sono, ma certo che ci sono, forse un po' meno secondo me. Si fa una raccolta un po' più sottile, ma ce ne sono sicuramente. Sì, magari nelle fiabe d'estate si possono raccontare tutte le fiabe riguardo anche il mare. Sicuramente ce ne saranno tante. Guarda quante idee che raccolgo stasera per il pranzo. È vero, è vero. Fiabe del mare, fiabe dei fiumi. Ci sono quelli del mare, della montagna, le avevo prese mari. Nella Lazzarato, vero? Stata raccolta in mare e montagne, perché lo usavo anch'io a scuola, ovviamente, no? Sempre usate le fiabe. Poi adesso devi anche conciliarlo con questo nuovo stravolgimento del clima, tra l'altro, no? Perché queste fiabe di primavera. No, fiabe di. Fiabe di puntini puntini, speriamo primavera. Sono storiche, quindi la primavera scomparirà. Perché in effetti vediamo i ciliegi sono fioriti. Il freddino adesso, che fa, adesso vado. Però il freddo è quello dell'inverno. Porca miseria. Bene, allora dai, prima di concludere, okay. Io volevo anch'io ringraziare te, Marina, di tutto questo accompagnamento delizioso, l'Associazione Scrittori che ha accettato di presentare e organizzare questa serata e la bibliotecaria della Claudia Augusta e gli spettatori. Pochi ma buoni.